Drago, hai presente Skype? Sì. Quando ti connetti, fa quel suono lì, no? Vabbè, certo, sì. Hai sentito? Sì. Non riconosci niente. No, è un Drago. Tipo un'aspirazione, una specie di suono sintetico, tipo. No, se stai più attento. Sotto dice. Sì, ma sotto dice fünf. Cosa fünf? In tedesco, fünf. Vuol dire cinque, lo so. Scusate, dice fünf. Allora, senti un fünf elettronico. Fünf. Vedi? Ma non è la stessa cosa. Come? Fünf. Perché non hai capacità d'astrazione. Se lo senti rallentato e al contrario. Forse sì, però. E quindi? Appunto, ma quindi cosa? Cosa vuol dire? Non lo so, chiedi a me. Skype, ma io ho trovato già il collegamento. Tu frega, trova il perché. Ma è tipico dei complottisti, Drago. Sei vecchio, Credo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago, non essere così entusiasta solo perché è venerdì. No, è venerdì, scalpito, amen. Scalpito. Venerdì. Dai, allora, abbiamo parlato la scorsa settimana di un tredicenne che ha sfregiato la fidanzatina dodicenne perché era geloso. Questo è il modo di comportarsi dei bambini qui in Italia. Invece in America ci sono i cinquantenni famosi, strafamosi, star di Hollywood che dichiarano il loro amore, così come si fa tra adolescenti, con un video amatoriale fatto e mandato alla propria fidanzatina. Di chi stai parlando, Drago? Di Jim Carrey, che voglio dire, c'ha una certa età. Vabbè, ma è un bambinone. È un eterno bambinone. Infatti ha fatto questa dichiarazione a una che ha 27 anni meno di lui. Si chiama Emma Stone, è una sua bellissima collega, però insomma l'ha fatto così, dicendo. I think you're all the way beautiful. Not just pretty. Ma le c'è, volevo dirti che sei bellissima, non sei carina ma intelligente e generosa, già qui non si capisce. E se fossi più giovane ti sposerei, ma vabbè, roba del genere. È uno scherzo. Però poi parla anche di sesso e dice sex and every day. E il sesso, per il resto della tua vita ringrazieresti Dio del fatto che io ho l'età giusta per te, capito? Quindi c'è ragione, gliela buttata lì, insomma, è la nave scuola, scherzo finché vuole, però insomma. Invece di andare da Maria De Filippi, quindi lui ha scelto l'autoproduzione di un video. Vabbè, capito? Così tu saresti andato da Maria De Filippi. Ma sì, però ormai si usa così, no? C'è posta per te, tu ti dichiari, se lei dice sì, no, è quella roba lì. Invece lui così ha deciso una cosa un po' più diversa. Ma sono attori, gli attori sono Drago, sono è diverso. Vedi Depardieu? Depardieu cosa ha fatto? Ha fatto pipì. No, sì, vabbè, ma va bene, ma poi che cosa? Siccome ha fatto la pipì sull'aereo, tutti fatto la pipì sull'aereo. Lui cosa ha fatto? Ha fatto un corto autoprodotto in cui c'è lui vestito da Obelix. Sì, che si incazza col personale dell'aereo perché deve fare la pipì. No, perché vuole un cinghiale. J'ai besoin d'un sanglier. Attends qu'on est décollé. Je ne peux pas attendre, il m'en faut un maintenant. Mademoiselle, tu peux avoir un sanglier? Après le décollage. Al grido di: Je veux un sanglier! Je veux un sanglier! Così lo fa. Je veux un sanglier! Je veux un sanglier! Mesdames et messieurs, nous sommes désolés de vous annoncer qu'à cause d'un Gaulois qui en a mis partout, nous sommes obligés de retourner à notre point de stationnement. Et ora, bambini, ricreazione! Beh, Sofia. Sofia cosa, dai? Beh, Sofia. Come con Kate, anche Sofia. Ma si è sposata. Come con Kate, Sofia è diversa. Cioè, Sofia fa i film. Cioè, Sofia. Creativa, selvaggia, chissà. Selvaggia non lo so, però insomma fai film, no? E quindi? Non so, fai film. Fai film e tu ti fai dei film con lei che fai film. Hai visto Bambino Alberto, il matrimonio di Sofia Coppola? E chi è? Ma come chi è? Fai film, è la figlia di Francis Ford. La figlia di? Francis Ford Coppola. Dai, ma Bambino Alberto, tutti i film da adulto che ti fanno vedere i tuoi, possibile non ti ha mai fatto vedere un film di Francis Ford Coppola? Lost in Translation, no, quello è la figlia. Di Sofia. Allora, perché tutti questi nomi non ne so niente. No. Ma sarà mica sta Sofia? Sì. Quella vecchia che mio nonno era innamorato sempre di questa donna. Oh, sta Sofia. Ma no, ma chi? Ma Sofia Loren. Sofia. No, ma non c'entra niente. Quando è che comincerà a capire le donne, le bambine? Un po' più avanti, lascialo stare così. Comunque, vabbè, gente del cinema, Sofia Coppola. Francis Ford Coppola, gente del cinema, molto famosa in America, sono americani. Però la figlia si è sposata da poco in Basilicata, capito? La figlia di appunto Sofia, che anche lei è una regista. Perché sono italo-americani. Lei si è sposata con un francese. Che poi anche lì del gruppo Phoenix. Ma chi non sono? Non lo so, i Phoenix, no, non ho mai sentito. Comunque nel menù tutti hanno detto che insomma la notizia del giorno era che nel menù di nozze il piatto principe era il lampascione. Allora. Lampascione. Sì, lampascione. Ma questi sono americani? Sì. Allora che gli americani hanno il gusto. Sì. Devo dire che tutto lo star system di Hollywood è stato in estasi per il lampascione. Sì, sì, c'era George Lucas, regista di Guerre Stellari. So, Tom Cruise, no? Leonardo DiCaprio, Hannibal Lecter. Tutti strafatti lì. Di lampascione. Ah, what is this? Lampascione. Delicious, Così. Tutti quanti. Come? C'era anche Paul Newman. Come no? Bravo. Sì, sì, Paul Newman. Ma no, guarda che anche Paul Newman, come molti altri, dopo una vita, una carriera fantastica, dopo anche un matrimonio record di 50 anni con Joan Woodward, dopo 10 nomination all'Oscar, una vittoria, e soprattutto dopo aver affascinato milioni di spettatori, anche Paul Newman è morto. Comunque il lampascione ormai è VIP. Vabbè, indubbiamente. Noi ci abbiamo pensato qualche mese fa con la canzone di Alberto. Quando lo dicevo io, No, ma perché? Abbiamo fatto anche la canzone, come quando lo dicevi tu, subito che recrimini. No, siamo contenti. Lui recrimina il pubblico. Esatto. Che non ha avuto il successo che ti aspettavi. Ma insomma, ci sono migliaia di visualizzazioni dei tuoi video. Secondo me Sofia Coppola perché ha messo il lampascione nel suo menù? Perché ha visto la canzone su YouTube, l'ha sentita, gli è piaciuta. Ma sicuramente. Allora, l'unica spiegazione logica è questa qui, no? Perché scusa, ecco qui io mi sono stupito prima. Gli americani che piace il lampascione. Ma gli americani mangiano le cose schifose. Tipo? Quindi questa qua arriva. Ma cosa ne salvi di cosa mangia? Il lampascione, una verdura semi sconosciuta della Basilicata, una specie di cipolla. E Sofia Coppola la conosce. Sì. Ma no, perché era qui, poi su internet si vede tutto. Quindi tutte quelle migliaia e migliaia, decinaia decine di visualizzazioni. Sì. C'era stata anche la Sofia, sta qui che è la Coppola, la figlia di quello là. Sì, lei sa chi è il bambino Alberto, ma il bambino Alberto non sa chi è lei. Ma poi chissà cos'è la passione, perché gli americani sono curiosi. Poi lo voglio anch'io. E allora ho detto. Appena risposo, voglio il lampascione. Ma guarda che Francis Ford Coppola penso che sia proprio della Basilicata. Lascia quindi lui si fa già lo mangiava da piccolo. Sofia Coppola, no, francese cosa c'entra? È il Phoenix. Ma no, Francis Ford Coppola. Il Phoenix, il francese. Ma di cosa state parlando? Non lo so. Il terzo uomo. Ma basta. Voi potete fare una cosa per contattarci, sia telefonare al numero 02 46 52 44 95, sia scrivere a chiedosilo@radio24.it, oppure arrivare alle pagine Facebook dell'Istituto Barlume e del Bambino Alberto. Domenica alle 15.30, appuntamento con lo speciale di Chiedo Asilo, Pollicino, la storia di un profugo molto speciale, in una favola molto reale, candidato al 63° Prix Italia.